Chiamati a sé i 12 suoi discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattia e di infermità. I nomi dei 12 apostoli sono primo Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo, il pubblicano, Giacomo di Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò dopo aver dato loro i seguenti avvertimenti. Non andate dai pagani, né entrate in una città di samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore disperse della casa d'Israele. Durante il cammino predicate dicendo: è vicino il regno dei cieli. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, mondate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non vi procurate oro o argento o denaro per le vostre tasche, non una borsa per il viaggio, né due tuniche né calzature, e neppure un bastone, poiché l'operaio ha diritto al suo sostentamento. Entrando in una città o in un villaggio, informatevi se c'è una persona proba e la arrestate fino alla vostra partenza. Entrando nella casa, datele il vostro saluto, e se la casa ne è degna, scenda su di essa la vostra pace. Se invece non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se uno non vi riceve né vuole ascoltare le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico, nel giorno del giudizio, alla terra di Sodoma e Gomorra sarà riservata una sorte più tollerabile che non a quella città. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, vi consegneranno ai sinedri e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. Sarete trascinati davanti a governatori e re a causa mia, perché rendiate testimonianza ad essi e alle genti. Qualora vi consegnino nelle loro mani, non vi preoccupate di come o di che cosa dovrete dire. Vi sarà suggerito in quel momento che cosa dovrete dire, poiché non siete voi a parlare, ma lo Spirito del vostro Padre parlerà in voi. Il fratello consegnerà a morte il fratello, il padre il proprio figlio, i figli sorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Chi avrà perseverato sino alla fine, questi si salverà. Se vi perseguiteranno in questa città, fuggite nell'altra, poiché in verità vi dico, non terminerete le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. Il discepolo non è da più del maestro, né il servo da più del suo padrone. È sufficiente per il discepolo diventare come il suo maestro e per il servo diventare come il suo padrone. Se il padrone di casa l'hanno chiamato Beelzebul, quanto più i suoi familiari. Perciò non abbiate paura di loro. Nulla v'è di coperto che non debba essere svelato e di nascosto che non debba essere conosciuto. Ciò che dico a voi nelle tenebre, proclamatelo nella luce. Ciò che udite nell'orecchio, annunciatelo sui tetti. Non vi spaventate, inoltre, per quelli che possono uccidere il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Non si vendono forse due passeri per un asse? Ebbene, uno solo di essi non cadrà senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti numerati. Non temete, dunque, voi valete ben più di molti passeri. Perciò, se uno mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Se invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Non crediate che io sia venuto a portare la pace sulla terra. Non sono venuto a portare la pace, ma la spada. Sono venuto a separare l'uomo da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora da sua suocera. Sì, nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà. E chi avrà perduto la sua vita a causa mia, la ritroverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta in quanto profeta, riceverà la ricompensa di un profeta. Chi accoglie un giusto in quanto giusto, riceverà la ricompensa di un giusto. Chi avrà dissetato anche con un solo bicchiere d'acqua fresca uno di questi piccoli, in quanto discepolo, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa.